2007, un lavoro realizzato insieme ai due grandi compagni di viaggio, che è Smeralda Calabria e Andrea D'Ambrosio, un documentario che voleva raccontare attraverso quello che stava succedendo in Campania sui rifiuti, sia dal punto di vista legale sia dal punto di punto di vista illegale, quindi sul traffico illecito dei rifiuti, come una metafora del paese, cioè il degrado sociale, politico che stava succedendo. Era nel 2007, quelle immagini avevano fatto il giro del mondo, possiamo dire, ma soprattutto c'erano state delle cose che forse abbiamo anticipato. Soprattutto mi ricordo che nel girare l'Italia, nel far vedere il documentario, la maggior parte del pubblico furono molto partecipi e sorpresi dalle intercettazioni telefoniche che avevano prettamente l'accento del nord Italia, quindi davano il senso in cui una Campania martoriata, spesso anche accusata di non saper reagire, faceva capire che comunque se il corpo del reato, quindi rifiuti tossici, rifiuti illegali, erano in Campania, comunque i mandanti erano anche in un'altra parte d'Italia. Oggi a 7 anni, che devo dire, tanti in questi anni ci hanno chiesto di fare un Beautiful Country 2. Noi abbiamo sempre detto che quel documento avevamo detto tutto, ma oggi a distanza di 6 anni, ritornando su quei luoghi, posso dire tranquillamente che non c'è bisogno di rigirarlo, quelle immagini sono le stesse, l'unica cosa che non è cambiata è che non è stato fatto nessun tipo di intervento dal punto di vista della politica, la bonifica e la messa in sicurezza di quei territori rimangono ancora una chimera. Senti, c'è stato però un cambiamento almeno per quanto riguarda l'atteggiamento dell'opinione pubblica, sia locale, sia nazionale, sia anche internazionale. Insomma, il vostro lavoro, se non vado errato, fu addirittura in Francia fu proiettato in sala, ecco, per cui fece abbastanza scalpore. Ecco, quantomeno dal punto di vista della presa di coscienza, comunque sono stati fatti passi avanti oppure bisogna essere pessimisti secondo te? No, io penso che quando ho voluto dire che è rimasto immutato l'intervento delle istituzioni, della politica, per dire che c'è un'altra rovescia della medaglia, che c'è una conoscenza maggiore, soprattutto da parte dei cittadini campani. Io penso sempre che la conoscenza è l'elemento fondamentale per sostenere qualsiasi tipo di protesta, è la conoscenza che può scuotere le coscienze delle persone. Oggi i cittadini campani, e la manifestazione di domani è un esempio emblematico, una manifestazione promossa dal basso, da cittadini, da associazioni, da giovani, da studenti, senza nessun tipo di etichetta politica, dimostra proprio questo, che adesso i cittadini sono stanchi delle parole, dicono basta, vogliono avere provvedimenti, sono loro i protagonisti, sono loro che adesso sono in grado di poter ribattere a qualsiasi tipo di intervento da parte della politica. Come dico spesso a Napoli, non li puoi far più fessi, sono loro che sanno adesso se si deve realizzare un impianto, se è un impianto che può essere considerato tra virgolette sostenibile, se ci sono delle criticità. Hanno preso una coscienza notevole. È importante che ci sia il passaggio dalle proteste alle proposte, perché in questo caso è lì che si deve intervenire. Però io sono fiducioso su questo, nel senso, vedo un movimento e penso che sia il documentario sia stato una goccia nel mare, ma fondamentale. Dopo il documentario Beautiful Country ci sono state tantissime televisioni. È normale che spesso si parla di emergenza terra dei fuochi. Io sono sempre preoccupato quando si aggiunge la parola emergenza. Emergenza sembra che qualcosa che scoppia così all'improvviso, invece c'è una continuità di inquinamento che dura da 7 anni. Ed è importante che non ci sia una corrente alternata su questi fuochi, però questo spesso non è colpa della cittadinanza, lì stanno combattendo e stanno denunciando da tempo, e se si sono arrivati dei risultati da parte della magistratura, che comunque in ogni caso fa un lavoro enorme, è anche dovuto alla denuncia e alla sensibilità dei cittadini. Senti, la valenza del documentario tuo in particolare e in generale del documentario come forma di denuncia e di conoscenza, com'è e soprattutto com'è mutata nel corso degli anni? Ne abbiamo parlato anche con altri documentaristi nel corso delle ultime settimane, anche in considerazione del fatto che a Venezia quest'anno ha vinto un film documentario, ecco, in qualche modo anche da questo punto di vista si sta evolvendo un po' la situazione, oppure si continua ad essere un po' figli di un dio minore per quanto riguarda l'industria cinematografica e audiovisuale? Io penso che nell'industria cinematografica si sono fatti dei passi in avanti, però certamente è ancora considerato come un'opera di nicchia, cosa che invece io sono convinto che non riguarda la parte del pubblico, che ha una richiesta enorme di vedere questo tipo di forma d'arte. Beautiful Country penso che sia stato anche uno spartiacque, nel senso che un documentario che aveva avuto un risalto, ancora oggi a distanza di 7 anni si continua a proiettare nelle scuole, nei cineforum. Io penso che la forma del documentario, quindi raccontare senza filtro, sia oggi una delle forme di comunicazione più importanti, più dirette. Chi va a vedere un documentario sa che non c'è una sceneggiatura cinematografica, è tutto fatto dal vivo, e quelle immagini, il potere delle immagini arriva direttamente come un pugno nello stomaco dello spettatore, che in quel momento da consumatore diventa protagonista, cioè nel senso che non può far finta di non sapere. È lui che adesso ha la responsabilità di decidere se rimanere in silenzio o fare la propria parte, e quindi di essere protagonista, di essere anche lui soggetto attivo. Io ci credo tantissimo nel documentario, anche perché questi fenomeni, raccontarli in un minuto, due minuti, nei tempi televisivi spesso può essere un boomerang, invece raccontarlo senza neanche rincorrere lo scoop giornalistico, ma nel descrivere, neanche nell'umanità delle persone, nelle piccole tragedie, ma anche nel senso di speranza, è fondamentale. Noi diciamo sempre con Esmeralda e Andrea che se col senno di poi ci dicono come volevate farlo il Beautiful Country, era proprio così come l'abbiamo realizzato, e penso che comunque il risultato più grande, al di là delle partecipazioni ai festival, ai premi, sia stato proprio il riscontro del pubblico e i ringraziamenti che ci hanno fatto il pubblico nel dire grazie, tante cose non sapevamo. Insomma, bisogna girare con lentezza oltre che lavorare con lentezza, è una formula. Sì, sicuramente, diciamo. Cioè, nel senso, è anche giusto avere i tempi, cioè nel senso non rincorrere perché c'è la richiesta su commissione. Io penso che il documentario uno lo fa quando ha l'esigenza di voler e dover raccontare un qualcosa. La tempistica poi è relativa, se uno lavora con coscienza ed è convinto di quello che fa, non è mai post-datato. E non possiamo che essere d'accordo con te. Peppe, ti ringraziamo moltissimo, fra poco daremo spazio anche ad altre iniziative, compagni, per la manifestazione di domani. Nel frattempo, dici. L'ultima cosa, un appello a scendere tutti quanti in piazza, una manifestazione pacifica, apartitica, che viene dal basso, ed è importante esserci anche per raccontare quella campagna che resiste. Non è tutto nero, ma ci sta una tanta gente, ma anche produzioni, penso ai beni confiscati sulle terre delle mafie, contadini che con tanta passione hanno curato i propri territori. Si scende in piazza anche perché la moneta buona deve scacciare quella cattiva. Dobbiamo archiviare questa pagina triste e vergognosa della terra dei fuochi e iniziare a raccontare di una terra felice. Assolutamente, non possiamo che essere d'accordo con te. Peppe, grazie mille, speriamo di risentirci al più presto e di rivederci comunque domani in quel di Napoli. Grazie a tutti quanti voi. Un abbraccio e a presto, ciao. Un abbraccio.